baciami, baciami, baciami. E forte stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace star racchiuso in te nel tuo tepore. Sento allora che tremi un po', ti batte il cuore. Amore, guardami, guardami, guardami. Quegli occhi dicono languidi, sì, ma baciami, stringimi, non farmi più parlare, son troppo innamorato di te.